sempre esidente, sempre presente, che ci accompagnerà. Sono venuto con 3 minuti di ritardo perché stavo con un sindaco della Lombardia, che non vi dico, un sindaco amico mio, leghista, che stava facendo l'esame a uno del suo paese, un cinese, che voleva avere la cittadinanza italiana e voleva avere un certificato che dicesse che sa tutto. Il mio amico non voleva assolutamente dargliela. E allora si informava, perché voi sapete che dovevo conoscere la storia, la cultura, i proverbi. E allora io ho assistito a questo esame, che è cominciato con delle cose geografiche, la capitale, il capoluogo della Sicilia, e questo rispondeva a tutto. Allora si è fatto più stringente l'interrogatorio sulla storia, gli ha detto Roma, da chi è stata fondata? E quello prontissimo, da Romolo e Remo. E quando è stata fondata? E mi strizzava l'occhio e dice adesso ci casca, nel 753 avanti Cristo. E che giorno? 21 di aprile. E come si chiamava quel generale che ha proceduto l'unità d'Italia? Giuseppe Garibaldi. Sa tutto questo. Beh, adesso però vediamo coi proverbi. Proverbi italiani sono la scienza, la cultura del popolo. Rosso di sera? E là. Bel tempo si spera. Tanto va la gatta al lardo? Che ci lascia lo zampino. Canchi a baia? Poco cotto. Toh! I carabinieri e quelli del COCER eccetera decidono che non sono molto contenti di come sta comportando il governo con loro, e allora decidono di prendersi una vacanza e se ne vanno. Dice, anche noi dobbiamo provare l'emozione della caccia, se ne vanno a caccia, e il maresciallo dice al primo prova tu, questo entra nel boschetto, pam, spara, esce fuori, dice cosa hai fatto? Dice boh, ho preso a giudicare dal pelo si direbbe una lepre, bravo, complimenti. Il secondo va dentro, pam, dice tu? Ah, dice guarda, l'ho preso, a giudicare dalle piume si direbbe un fagiano. Tocca al maresciallo, va dentro, pam pam, viene fuori un po' preoccupato, dice cosa hai preso? Dice boh, a giudicare dei documenti si direbbe un comunista. Diffidate da coloro che non sanno ridere.